Nuove detrazioni per le famiglie, l'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina. Dunque, Monti, per il calo delle tasse bisogna aspettare il pareggio di bilancio, forse prima del 2014. Venerdì, ricorda appunto il Sole, il Consiglio dei Ministri, il decreto fiscale. Da una parte questo grande tema, a centro pagina abbiamo citato i redditi 2010 dei ministri, questa novità schierata, qui ci sono 17 nomi, cognomi, ruoli e cifre, naturalmente a partire da Mario Monti, Presidente del Consiglio, 1,5 milioni, fino al 17esimo Andrea Riccardi, Ministro della Cooperazione, 120 mila euro l'anno. Dappertutto dunque l'informazione, la pubblicazione, come appunto il governo Monti aveva promesso, una novità, al di là poi di tutte le considerazioni che vedremo emergono intorno a questa comunicazione, la novità di una trasparenza. Già qualcuno si chiede, questo diventerà un modello, diventerà obbligatorio anche per i prossimi governi ripercorrere questa modalità, rispettare questa forte affermazione di trasparenza, vedremo, ma restiamo sulla prima del Sole. L'altro tema, Confindustria, il sindacato non protegga i fannulloni, Camusso dice sono parole offensive, dunque botta e risposta con la CGIL sull'articolo 18. Emma Marcegaglia dice vogliamo poter licenziare le persone che non fanno bene il proprio mestiere, gli assenteisti cronici, i fannulloni. La presidente dell'industriale ha aggiunto che vorremmo avere un sindacato che lotta per tutelare i propri lavoratori, ma anche un sindacato che non protegge gli assenteisti cronici, i ladri, quelli che non fanno il loro mestiere. Secca la replica della leader CGIL, Susanna Camusso. Parole offensive. Critiche alla Marcegaglia sono arrivate anche da CISL e UIL, ma per la presidenza di Confindustria non c'è nessuna mancanza di fiducia verso il sindacato. Quindi il tema del fisco e del lavoro in primo piano, e anche quella naturalmente di una trattativa complessa. Lavoro, il PD gela Monti, appunto, è il titolo invece scelto questa mattina dalla Stampa di Torino. A centro pagina ancora una volta le fotografie dei ministri e i loro redditi, ma segnaliamolo subito, l'abbiamo sentito nel GR Sport poco fa dalla voce di Dario Ricci, l'impresa Napoli, Chelsea battuto, gli inglesi in vantaggio con Mata, poi Cavani Lavezzi Show, insomma un 3-1 per un San Paolo in delirio. Tra le i richiami alla prima pagina c'è invece una vicenda che ci riporta alla memoria ormai di qualche settimana fa. Strauss-Kahn di nuovo in cella dopo la vicenda americana newyorkese che di fatto ha posto fine, era ancora lo scorso anno, alle ambizioni presidenziali dell'ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Bene, un nuovo fermo a Lille, quindi nel nord della Francia, per notti libertine con escort. Tra le accuse, la complicità in sfruttamento della prostituzione. Questo è Strauss-Kahn di nuovo in cella. E ora il Policlinico, una vicenda di sanità, la sospensione dei dirigenti del Policlinico è il titolo di apertura di centropagina del Messaggero questa mattina. Dunque Policlinico, dirigenti sospesi, il Ministero, 12 punti critici per il quotidiano appunto di Roma. Naturalmente la vicenda particolarmente importante per tutti, ma con un occhio particolare visto dalla prospettiva romana. Repubblica, ecco, lavoro e attacco di Confindustria per Repubblica. Marcegaglia, al sindacato difende ladri assenteisti, la CGIL offese gravi, quindi appunto questione di cui abbiamo parlato in apertura. Per quanto riguarda il tema del Policlinico di cui abbiamo appena parlato sul Messaggero, anche una dichiarazione, un impegno del ministro Balduzzi nella pagina centrale di Repubblica, dice una task force contro la malasanità. Intanto sono stati sospesi due dirigenti del pronto soccorso del Policlinico dopo lo shock della donna in coma legata alla barella per 4 giorni. Ancora Chi protegge i ladri? Battaglie sbagliate. I sindacati difendono l'articolo 18, la posizione di Libero sulla questione di cui abbiamo più volte parlato già, è appunto esplicita. Le battaglie sbagliate. E così dice Libero, finalmente si sveglia pure la Marcegaglia. Ma per Libero è anche un'altra questione che viene ripresa con forte richiamo, ed è proprio quella dei Marò. Con i Marò Monti fa l'indiano, precedenza ai contratti. Ecco, ci sono questioni, diciamo, economiche, commerciali legate a questa vicenda che rischiano in qualche modo di rallentare o condizionare l'azione del governo. Questo è quello che lascia, appunto, che suggerisce di fatto Libero. Allora, adesso dobbiamo fermarci per qualche momento, poi magari ripartiamo da qualche approfondimento per vedere anche, oggi il Sole sviluppa con attenzione questo tema, come in realtà scopriremo che i rapporti economici tra Italia e India, per quanto importanti, non siano così prioritari e probabilmente non sono la chiave della vicenda. Tra poco. 24 mattino. 7:36 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, eravamo sul tema India, la diplomazia spinge per la liberazione dei Marò. Il sottosegretario di Mistura a Delhi per chiarire la posizione dei due italiani. Questa è la cronaca. Ci chiedevamo prima se ci fosse e fino a che punto possono pesare, diciamo, i temi prettamente economici in questa vicenda. Ugo Tramballi, a pagina 20 del Sole, ci spiega: 8 miliardi di euro di interscambio con l'India sono circa la metà di quello con la Polonia. Quanto a popolazione, sono 1,1 miliardi di abitanti a 38 milioni. Ecco, questo dato, forse per stemperare anche, o quantomeno per visualizzare che le complessità di questa vicenda, che riguarda naturalmente appunto la difesa, lo Stato italiano e i governi anche della Confederazione indiana, in particolare quello del Kerala, insomma, forse vanno guardati altrove. Una relazione storica molto legata alla figura di Sonia Gandhi, quella tra l'India e l'Italia. E Ugo Tramballi ci spiega che nemmeno le origini italiane della donna più potente dell'India sono mai state un vantaggio per noi, al contrario. Chiunque tenti di porre una sola domanda in italiano a Sonia si sente rispondere in inglese. Rahul e Priyanka, i figli, parlano molto bene la nostra lingua, ma insomma è una specie di segreto di famiglia. Per anni infatti Sonia è stata accusata di essere il centro del potere di una Italian Connection. E più Sonia entrava in politica, più le origini italiane venivano usate dalle opposizioni, a volte anche dentro lo stesso Congress Party, cioè il suo partito. È solo per questo che il primo ministro è Manmohan Singh e non lei. Insomma, una complessità che riguarda più la politica, i sentimenti nazionali e nazionalistici che ovviamente anche in India in questi ultimi anni soffiano tesi e alimentano tensioni complesse. Tant'è comunque, martedì prossimo, in tutto questo, Giulio Terzi, quindi il ministro degli esteri italiani, dovrebbe andare in visita a Delhi. Questa era una visita annunciata da tempo, il viaggio previsto e organizzato nei dettagli. L'obiettivo del ministro degli esteri era davvero, in questo caso, eminentemente economico: rimettere in moto quei contatti, perché con le sue dimensioni, le grandi opportunità, l'India diventi finalmente qualcosa di simile alla Cina, un paese strategico per l'Italia, cosa che oggi, ci spiega Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore, in realtà non è. La ricostruzione, e così chiudiamo per adesso questo tema, la ricostruzione della vicenda nei dettagli su Repubblica: l'armatore al telefono ordinò tornate a Kochi, i due Marò costretti con le armi a sbarcare. Nel frattempo dunque si delineano, si chiariscono i passaggi della vicenda e di come una nave appunto italiana con presenza militare a bordo di fatto dalle acque internazionali si sia poi spostata all'acque, al porto, e diciamo innescando anche questo meccanismo dove, ricordiamolo, comunque ci sono due persone uccise e ancora due pescatori indiani uccisi, e una vicenda appunto con molti aspetti da chiarire. Torniamo alle prime pagine, torniamo ai temi del lavoro con il Corriere della Sera, che titola Bersani al Premier: il sì non è scontato. Il leader del PD avverte il capo del governo che sarà necessaria un'intesa con le parti sociali. Dario Di Vico, il suo editoriale di oggi, il titolo è Riflessi condizionati. I riflessi condizionati sono appunto quelli che Di Vico attribuisce a Bersani. Il cartellino giallo che ieri ha sventolato davanti a Mario Monti, Bersani, serve a saldare un fronte neolaburista tra la sinistra e le organizzazioni sindacali, non più la sola CGIL, ma assegna di nuovo al PD la patente di partito della conservazione dell'immobilismo. Bersani non si sarebbe sicuramente mosso se non avesse percepito il profondo disagio e ascoltato le richieste di aiuto della rappresentanza sociale, ma sa che se sbaglia il conto lo pagherà di persona. Insomma, ma la posizione della politica rispetto al governo Monti e alle sue iniziative nella politica del lavoro, ma non solamente, e quindi per ciò che riguarda anche quello che Monti ha detto all'inizio di settimana prima di volare a Bruxelles per il vertice sulla Grecia, quando appunto ha in qualche modo forzato la situazione dicendo accordo comunque, o meglio misure sul lavoro comunque anche senza un accordo entro marzo. Ecco, da quel momento si sono avviate tutta una serie di considerazioni che oggi portano Di Vico a questa riflessione sulla posizione assunta sul tema della riforma del lavoro dal leader del PD. Questo è un aspetto di questa vicenda. Un altro, ce ne sono molti ovviamente, oggi di fatto tutti i quotidiani analizzano, riflettono, raccontano aspetti di questa giustamente di questo grande tema. Vi segnalo dalla Stampa di Torino, Marco Alfieri scrive: le imprese, impossibile liberarci di chi non lavora. Ma insomma, è davvero così come dice qui? Naturalmente il legame è totalmente all'affermazione della presidente di Confindustria Marcegaglia sul sindacato, protezione di ladri e fannulloni. Ma insomma, è davvero così? Si interroga Alfieri. Innanzitutto qualche numero. Secondo l'Istat, in Italia ci sono 23 milioni di lavoratori attivi. Tolti i liberi professionisti, ne restano 21. Di questi, 3 sono impiegati pubblici. Quasi 10 milioni sono occupati in PMI con meno di 15 addetti, contro i quasi 8 in aziende medio-grandi, a cui si applica pienamente il regime protettivo dell'articolo 18. Quindi, quando la Marcegaglia e la Camusso litigano, lo stanno facendo su una platea di circa la metà del totale dei lavoratori italiani. Se poi analizziamo i reintegri in azienda a seguito di contenziosi aperti sulla base dell'articolo 18, si tratta, scrive Marco Alfieri, di numeri infinitesimali, tra le 300 e le 500 posizioni ogni anno, rispetto al mare magnum delle 160.000 cause di lavoro totali che ingolfano a getto continuo i nostri tribunali, tra le 300 e le 500 posizioni ogni anno. Questo naturalmente è solo un frammento di questo articolo, ma insomma anche questo elemento è decisamente importante, forse per relativizzare, per inquadrare con i numeri la questione. Allora, prima di passare anche a qualche notizia internazionale, vediamo proprio altri titoli. Lady 7 milioni è una sorridente ministro Severino, oggi sulla prima pagina del giorno, i redditi dei ministri naturalmente. Lady 7 milioni batte tutti, passera secondo. Il giornale Sobri ma molto ricchi è il giornale di Sallusti. Berlusconi intanto nell'occhiello si parla appunto della proiezione politica. Interessante anche questo, dice Berlusconi guarda al 2013, non lasciamo Monti alla sinistra. Abbiamo appena letto questo, diciamo, nell'editoriale del Corriere come tra le righe, ma neanche tanto, ci sia il tema del non lasciamo Monti alla destra, dibattito che peraltro divampa da giorni appunto su alcuni dei maggiori quotidiani della sinistra. Dicevamo sobri ma molto ricchi, e a centropagina un'intervista a Francesco Rutelli: no alla cittadinanza facile. Il tema della cittadinanza viene ripreso e affrontato dal Giornale con un'intervista appunto al leader di API, che si schiera contro la linea morbida, dice è un invito ai clandestini, e il Giornale gli dà dunque ampio risalto. Viabilità, poi torniamo insieme. 7:47 minuti, dunque eravamo al Giornale, non la cittadinanza facile. Dunque, come chiede la stessa Laura Cesaretti nell'intervista, dice: senatore Rutelli, da uno come lei, con la sua passata militanza radicale, insomma va proprio nel passato di Rutelli la collega, e la vicinanza al pensiero cristiano dell'accoglienza, non ci si aspetterebbe il no alla cittadinanza per gli immigrati. Come la spiega? Non è un no, dice Rutelli, semmai è un invito a non cadere nella trappola di un buonismo controproducente, a non deprezzare la cittadinanza italiana, riducendola a semplice automatismo. L'idea che sia un pezzo di carta che chiunque può prendere con la stessa facilità con cui si comprano le figurine è superficiale e pericolosa. Ci sono almeno due questioni preliminari trascurate che vanno affrontate. Quali dunque? Il criterio dello ius soli, se lo introduciamo, insomma l'automatismo della cittadinanza italiana, rischiamo di trasformare l'isola di Lampedusa, il porto di Ancona, la stazione di Trieste in succursali della più clamorosa clinica ostetrica d'Europa. Insomma, un Rutelli che ricorre a tante figure retoriche per dire no allo ius soli senza dubbio. D'altra parte, lo ricordiamo, e insomma l'abbiamo solo accennato in questi minuti, ma il dibattito avanza dal punto di vista di, per esempio, di Andrea Riccardi, ministro che ha di nuovo animato questo dibattito. Si afferma sempre di più quella sorta di modello di ius culturale, che lui definisce appunto la possibilità di acquisire l'italianità attraverso un percorso che è quello di una presenza, evidentemente, ma di una serie di acquisizioni attraverso la lingua, la cultura, la scuola, che formano una sorta di patentino di italianità. Ma Rutelli dunque prende posizione su questa questione e il dibattito ovviamente prosegue. Vediamo ancora qualche prima pagina. L'Avvenire, una storia completamente diversa, nel senso che nel taglio centrale è meno tasse dal 2014 o prima, quindi è la lotta all'evasione, ma nella parte, nella vera apertura, il titolo è Fuga dall'inferno, un racconto di una fuga braccato dai predoni, l'Eritreo testimone degli orrori nel Sinai, è sfuggito ai suoi rapitori, sa troppo della tratta di persone e organi nel deserto egiziano. Insomma, un'inchiesta originale che riguarda appunto il tema del traffico degli uomini, che viene raccontato ovviamente con ampio spazio nella pagina 2 e 3 del quotidiano dei Vescovi. Ancora invece torniamo sul tema del lavoro. L'Unità: chi vuole rompere il tavolo del lavoro? Marcegaglia contro sindacati, Bersani avvisa il governo. Quindi per l'Unità, mentre per il Fatto Quotidiano redditi è lo strano ritardo di Monti, mentre tutti i quotidiani di fatto riportano molte foto, molti nomi e numeri sulle dichiarazioni appunto dei redditi del governo, per il Fatto Quotidiano è lo strano ritardo di Monti. La dichiarazione del Premier arriva solo alle 23, a 11 milioni investiti tra l'altro in fondi gestiti da Intesa e BNP Paribas, la più ricca è la Severino, poi c'è Passera che dice al Fatto ho rinunciato alla buona uscita milionaria. Segnala anche il Fatto un tema presente ma in maniera decisamente più diciamo meno vistosa il tema dell'ICI. Per il fatto è miracolo, ICI alla Chiesa scomparsa dal decreto, il decreto fiscale sul fisco che il governo deve approvare venerdì, è ancora un testo grezzo di cui si è discusso ieri in preconsiglio. Si notano però molto bene le assenze, una su tutte, l'intervento sull'ICI per gli immobili, almeno in parte commerciali, almeno appunto per gli immobili commerciali della Chiesa. Eccoci, siamo quasi alla conclusione, ma il Riformista sceglie la sua apertura sulla crisi di identità dei partiti, che di fatto abbiamo incrociato in altre modalità lungo questa rassegna stampa. Qui è proprio bipolarismo finito il punto di domanda. Nel PD si aggira l'incubo della scissione, nel PDL lo spettro di un bis di Monti. E è vero quello che scriveva ieri Angelo Panebianco sul Corriere: dopo il governo Monti è assai probabile che nessuna delle due sigle PDL e PD che il bipolarismo ha partorito vedrà l'alba del mondo post bipolare, così scrive Emanuele Macaluso. Ecco, su questo arriviamo davvero alla conclusione. Vi segnalo solamente, riprendendolo sempre invece da Avvenire, che ho citato pochi momenti fa, un racconto interessante sull'altra Grecia. Della Grecia abbiamo parlato a lungo ieri, continuiamo a farlo oggi nei chiarimenti, insomma, dell'accordo sul prestito. Fuga dalle città e un tuffo nel sommerso. Nell'Egeo turismo e nero sono gli antidoti alla crisi. L'inviato di Avvenire Giorgio Ferrari racconta come sia sufficiente allontanarsi dalle grandi città come Atene, Corinto, Salonicco e Volos e la crisi, la bancarotta, la scure selvaggia delle banche creditrici, l'occhiuta vigilanza della Troica diventano solo minacce remote e fantasiose come il bestiario di Senofonte nell'Anabasi. Ma insomma, in una Grecia ostinatamente arcaica le uniche attività sono l'agricoltura e il turismo. La crisi non esiste, non esistono nemmeno gli scontri. Non esistono tante di questi, diciamo, elementi, fattori e anche tensioni che invece a Atene così fortemente vengono vissute e raccontate in queste settimane. Siamo alla conclusione, ormai quasi le 7:54 minuti, come sempre l'aggiornamento da GR24 tra poco. Noi ci risentiamo alle 8:20, ripartiremo dalla vicenda dei Marò e cercheremo di capire di più dalle parole di un professionista. A più tardi.